Cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati, Radio Alma Brussellando, siamo qui questa sera nuovamente insieme, ci scusiamo se siamo un po' in ritardo rispetto a quella che è la nostra abituale agenda, la nostra trasmissione, ma Bruxelles questa sera sembra essere apparentemente impazzita di traffico, di gente in strada, forse perché sebbene non faccia poi tanto caldo, quindi oggi comincia l'estate, no? È la notte più corta dell'anno e il giorno più lungo dell'anno. C'è la fête de la musique. È la festa della musica, insomma, voglio dire, ci sono tante cose che bollono in pentola questa sera in alcuni paesi, tra l'altro si festeggia proprio la notte di mezz'estate. Stai parlando dell'Inghilterra, Shakespeare? Anche, anche, però insomma voglio dire, è una serata abbastanza particolare e speciale questa sera, noi siamo contenti di essere in vostra compagnia, sperando che come al solito la troviate piacevole e gradevole. Saluto Dani M in regia. Buonasera a tutti e buona musica e buona estate a tutti. Che è tornato da Lussemburgo, quindi veramente siamo contenti. E tra l'altro è arrivato prima lui da Lussemburgo che noi dai nostri rispettivi uffici. Quindi questa veramente la dice lunga. C'è il nostro George. Ritardato come sempre, sì, ritardata, vabbè, uguale. Tanto con te siamo abituati a tutto, quindi insomma è uguale. La nostra Imola. Ciao, buonasera. Ah, ho visto che hai un bellissimo schermo sul cellulare. Questo? Ah sì, sono curiosa. Questo? Vabbè, è bellissimo, c'è il rosso. Donna, il rosso è donna tecnologica. È una donna estremamente tecnologica, insomma. Sì. Io oggi forse finalmente ho imparato a usare Picasa, forse. Che non si sa nemmeno che cos'è, però non importa. Funziona, dai. Non lo so io, ma tu lo sai, dai. Io non faccio pubblicità in radio. La nostra Bruxellando, beh, cioè in Francia ha pure ormai anche varato una legge, no? Non si possono dire più tutta una serie di cose. Ha questa ragione. Me la sono persa. Beh, non si possono citare alcuni dei social network, vuoi che te li dica oppure li lasciamo in sospeso? No, vabbè, è inutile dire, insomma, Facebook lo sanno anche i bambini. George, in Francia è uscita questa legge, praticamente siccome Facebook, Twitter, eccetera, sono quotati in borsa, tu non puoi dire... Nominarli. Facebook, nominarli, perché sarebbe una pubblicità occulta. Quindi se io dico mi sono comprato una fatta in Italia, nello stabilimento di... Non comprata in. Ma. Cioè, cosa parlo? A tratti? Il concetto, a tratti? No, è perché una Fiat adesso, la Fremont della Fiat viene chiaramente dall'America. Certo, che tu quando hai per esempio una radio, una televisione, non dici seguiteci sul nostro account Fremont della Fiat, magari 200 volte al giorno. Loro l'hanno fatto perché sembrava una pubblicità ripetuta, poi è limitata. Come vabbè, cosa. Comunque sia, io direi. Ho capito, io come faccio a dire? Seguiteci su. Noi diciamo seguiteci su. Dimmelo.com. Su Bruxellando. No, non si può. Ma no, Bruxellando. Il nostro Bruxellando. Ma noi siamo in Belgio, noi siamo in Francia. Ah, siamo in non andiamo in onda in Francia? No, sì. Confermatecelo che non andiamo in onda in Francia. No, come? Abbiamo chi ci ascolta anche dalla Francia, in podcast. E allora ci chiuderanno. Ci chiuderanno. Andate a visitare il nostro sito bruxellando.bip.com. Ma innanzitutto noi siamo negli Stati Uniti, virtualmente. Allora io sai cosa farò? Cercherò di creare un sito web che fa bruxellando.bip.com. Così quando lo questo mi piace. Bruxellando.bip.com mi piace, è originale come idea. La trovo geniale come al solito. Il nostro George, come faremo senza la nostra Bruxellandopedia vivente? Ce la potete dire? Faremo delle cose migliori. Delle cose migliori, ma innanzitutto a Bruxellandopedia poi si può anche aggiornare. Sì, questo è vero. Sto aspettando. Noi poi intanto stai aspettando di scaricare il software migliore. Esatto. Per rinnovare tutte quelle che sono i contenuti dei vari test, link. Ipertestuali. Esatto. Ebbene sì. Ma insomma, chi abbiamo stasera? Allora, questa sera è una puntata molto molto particolare, anche perché ci scusiamo, tra un problema tecnico e il lavoro che ultimamente ci prende molto, effettivamente siamo stati un po' ballerini in queste ultime settimane. Quindi, per recuperare abbiamo due ospiti, un graditissimo, felicissimo ritorno, l'ambasciatore Domenico Vecchioni, il quale ci aveva salutato un po' di mesi fa e ci aveva promesso che avrebbe scritto qualcosa, sebbene con un po' di incertezza, no? Ma giustamente è così, quando si lavora un qualcosa, un romanzo, uno scritto, un saggio, qualunque cosa, in genere è un po' come una gravidanza, non si è mai sicuri fin tanto che non la si porta a termine. Ebbene, l'ambasciatore, che gravidanza che ha portato a termine, perché ha scritto di un personaggio estremamente affascinante, Evita Peron. Rita Verón, che poi è stata anche resa nuovamente celebre anche da Madonna e da un film che è uscito proprio qualche tempo fa. Ma questo è poi più di quello... qualche anno, eh? Beh, qualche, dai, fin tanto che resto sull'indefinito, qualche non e non ricordo, ricordo di averlo visto, non ricordo l'anno. Però l'ambasciatore ci racconterà qualcosa in più su questo personaggio straordinario. E poi invece il secondo ospite, nuovamente un ritorno, perché sapete, questi amori che poi nascono in radio è bene anche coltivarli, con un altro ambasciatore che si trova invece dall'alto là, dall'altro lato, dall'alto là, e chissà che non ce lo dia lui a noi un alto là, l'ambasciatore toscano, col quale avevamo già parlato qualche tempo fa di multiculturalismo, di multilinguismo, insomma, promotore di scambi tra l'Italia e gli Stati Uniti per i più giovani, per gli adolescenti. Invece questa sera cambia veste e ci racconterà, ci parlerà un po' di quello che sta accadendo nel sistema delle relazioni internazionali, quindi cosa accade in questo variegato mondo della geopolitica alla luce di tutti quelli che sono i cambiamenti ai quali noi stessi oggi assistiamo. E poi ovviamente c'è il librangolo della nostra Fiordaliso. Io sono proprio curiosa perché, come sapete, le chicche di Fiordaliso sono assolutamente da non perdere. Ambasciatore! Sì, buonasera. Buonasera, benvenuto a Brussellando e bentornato soprattutto. Che piacere risentirla. È il piacere, molto bene. Il piacere veramente anche, è anche nostro. Soprattutto perché... nostro, ambasciatore. Grazie. Anche perché questa sera poi parliamo di un tema, insomma, di un personaggio che tanto ha fatto sognare, insomma, più di una generazione, che tutto sommato resta ancora abbastanza amato, cioè Evita Perón. Sì. E come mai, allora, ricordiamo un attimo ai nostri amici ascoltatori che Domenico Vecchioni è stato già più volte nostro ospite, lo ricorderò sempre con piacere perché poi è proprio con lei, ambasciatore, che abbiamo iniziato il nostro La pena del diplomatico, quindi l'angolo di Brussellando dedicato per l'appunto ai diplomatici, che abbiamo tante volte parlato già, insomma, dei tiranni, abbiamo, insomma, ci siamo raccontati un po' di cose. E questa sera invece probabilmente parliamo di un tema un po' più frivolo, possiamo dirlo? Beh sì, in un certo senso. Beh, rispetto alle spie, rispetto ai tiranni, respiriamo un po'. Da dove nasce questa l'idea di dedicare un saggio alla Evita Perón? Ma guardi, in realtà Evita è un amore giovanile, diciamo. Cioè, quando ero in Argentina, tanti anni fa, quando ero primo segretario in Argentina, ho cominciato a interessarmi di Evita, ma proprio perché non se ne poteva parlare, perché in quel periodo, parlo degli anni fino agli anni 70, inizio anni 80, è il periodo della giunta militare di Videla e compagni, e quindi della giunta ferocemente antiperonista, di Evita non si poteva assolutamente parlare, era un tabù negativo. E quando io sentivo appunto degli amici argentini che accennavano a questo personaggio, a quello che era successo quando era morta, no? Che certo, tutti gli orologi nelle case si erano fermati alle 20:25, l'ora in cui Evita è entrata nell'immortalità, è cominciato questo interesse che poi ho continuato ad avere, ho già scritto qualche cosa su Evita negli anni passati, e poi insomma è venuto questo desiderio di raccontare questo personaggio abbastanza incredibile, soprattutto in questa nostra epoca magari di personaggi come dire, posticci, insignificanti, fittizi. È un vero personaggio, una persona che ha lasciato non solo ha lasciato il segno, ma che incredibilmente ancora oggi in Argentina, ma anche nel mondo, e rappresenta un mito che dura, che perdura, è quello che meraviglia, insomma, 60 anni della morte è ancora un mito in un certo senso. Secondo lei questa aureola, diciamo, di mito, quindi il ricorrere poi anche alla stessa espressione di mito, a che cosa può essere dovuta? Perché sono tanti poi i personaggi in America Latina che in un certo senso riescono ad assumere questa veste. Ma sì, è quello che, insomma, mi sono chiesto anche nel libro, e credo che i motivi sono tanti, e poi nel mito c'è sempre qualche così ragione difficilmente percettibile, però parlando di motivazioni storicamente definibili, ma sicuramente la rapidità dell'avventura umana e politica di Evita, si deve pensare che tutto avviene praticamente in solo 4 anni, cioè nel 1943 Evita è ancora una speakerina radiofonica, insomma un'attrice radiofonica poco conosciuta, nel 1947 è già il capo spirituale della nazione e nel 1947 per esempio Time Magazine le dedica la copertina come una delle donne più così conosciute del mondo, e quindi un percorso talmente stupefacente che lascia sicuramente delle tracce indelebili. Poi vabbè, si sa, nel mito conta la morte avvenuta, certo, prematura, avvenuta uh-huh. nel momento del suo massimo splendore, come dire, non solo politico ma anche fisico. Certo, se Evita fosse vissuta, come sarebbe invecchiata? Sarebbe stata coinvolta nelle vicende politiche del suo paese, sarebbe stata cacciata dall'Argentina come lo fu poi Perón, sarebbe imbruttita. È un po' quello, per esempio io faccio il paragone con Imelda Marcos, che a un certo punto sembrava che fosse un po' il mito filippino del XX secolo. Anche lei era bellissima e governava il paese con il marito, però lei invece, Imelda, è rimasta coinvolta nelle vicende, e quindi è dovuta fuggire, poi è tornata, oggi è una vecchia signora, un po' il ricordo di quello che fu, ma non ha assunto i contorni del mito proprio perché è rimasta diciamo la sua immagine invecchiata fisicamente, mentre Evita, l'immagine di Evita non ha conosciuto decadenze né estetica né politica, e nell'immaginario collettivo argentino è sempre bella, giovane, elegante, anticonformista e protettrice dei descamisados, dei senza camicia. Poi di motivi ce ne sono ancora, ma insomma il comportamento da vero Robin Hood, che Evita prendeva ai ricchi per distribuire ai poveri, lo faceva con metodi piuttosto autoritari, però lo faceva. E poi soprattutto importantissima la dimensione di femminista di Evita, cioè è stata la prima vera donna politica argentina e che ha fatto fare dei progressi incredibili alla donna argentina, ma a tutte le donne del continente. Uh-huh. Insomma, De Vita si deve la legge, detto appunto legge Vita del 1947, che conferisce i diritti politici alle donne. Lei lo aveva promesso prima dell'elezione del 47 e mantiene questa promessa. Vita fonda il Partito Peronista Femminile per dare alle donne un primo, come dire, focolare politico dove poter discutere della situazione del paese e della situazione delle donne. E poi introduce una serie di riforme proprio giuridiche per togliere la donna argentina dallo stato di inferiorità in cui si trovava, inferiorità giuridica, cioè la donna argentina non poteva ad esempio disporre del frutto del proprio lavoro senza il consenso del marito. Quindi da questo punto di vista sono le donne che hanno pianto Evita, che la rimpiangono ancora, proprio perché è protagonista di questa eccezionale emancipazione femminile. Ma sa, il mito non si spiega fino a un certo punto, se lei pensa che è un mito, secondo me, che si è alimentato anche delle versioni negative di Evita, cioè uh-huh. mi riferisco al famoso film, no? Il film con Madonna. Sì, esatto, sì. Da un musical, e lì se uno legge bene i testi, in realtà i testi non sono molto agiografici, insomma sono abbastanza critici nei confronti di Evita, no? C'è questa figura inventata del Che Guevara, esatto, che, esatto, che parla, sì, di Evita, no? Antonio Banderas. Però qui in Italia perlomeno è successa una cosa abbastanza singolare, cioè il pubblico non stava attento alle critiche, cioè a un certo punto l'immagine di Rita si stagliava in maniera quasi autonoma, quindi al di là delle critiche rimaneva, detto, vabbè, a parte le musiche stupende, ma insomma il personaggio si nutriva anche delle critiche per apparire sempre più grande, quindi di motivazioni ce ne sono tante ed è ancora oggi così. Se lei parla di Evita in Argentina, vedrà che difficile parlarne in termini critici, insomma. No, assolutamente. D'altronde ci sono gli altarini nelle case popolari con la fotografia multicolore di Evita con una candelina che si tiene accesa. È stato un personaggio veramente incredibile. Quando lei ha scritto il libro, quali sono state le fonti a cui ha potuto attingere? Ma guardi, io sostanzialmente su Evita c'è una bibliografia immensa di tutti i tipi, e io ho cercato di leggere le biografie, non solo quella geografica naturalmente, ma anche le altre, e poi ho cercato anche di quando ero in Argentina, che sentivo proprio qualche persona che magari l'aveva conosciuta, anche in Italia c'è ancora qualcuno che conosco, che l'ha conosciuta quando è venuta qui in Italia nel 47, e quindi così, insomma, sostanzialmente cercando di meglio delineare i contorni del personaggio su un lavoro di ricerca, insomma, bibliografica più che altro. Al di là del mito, però, che cosa resta? Qual è l'eredità di Evita che ha lasciato al suo paese, all'Argentina? Ma forse guardi, sicuramente intanto questa rivoluzione femminista. Se lei oggi in Argentina c'è una presidentessa, una donna. Assolutamente. E se lei guarda le statistiche dell'ONU, la graduatoria dell'ONU, sulle, diciamo, i paesi dove le donne occupano dei posti politici e amministrativi di alta responsabilità, l'Argentina è al quarto posto, l'Italia all'80esimo, vabbè, ma non parliamo dell'Italia, però voglio dire che se l'Argentina è al quarto posto, per esempio, e lo deve sicuramente ad Evita, e quindi questa è sicuramente una eredità. E poi soprattutto il fatto che Evita ha stravolto il concetto di assistenza sociale, cioè prima l'assistenza sociale in Argentina, a parte che non esisteva quella dello Stato, diciamo, la previdenza sociale non c'era, ma anche quella che c'era, quella privata, quella dei grandi aristocratici, era un'assistenza, come dire, concessa dall'alto. Evita trasforma questo concetto e dice no, l'assistenza sociale è dovuta e deve essere anche pubblica, deve essere dello Stato, e il debito che la società deve pagare nei confronti dei lumi, dei diseredati e dei famosi senza camicie. Quindi ha lasciato sicuramente questa eredità di emancipazione sociale, femminile, e poi tra l'altro lei ebbe un rapporto straordinario con i sindacati, col sindacalismo argentino, che durante il peronismo ebbero un momento di grande protagonismo, e quindi probabilmente c'è anche questa eredità, insomma. E assolutamente. Vita, io credo, io per gli argentini è, come dire, ancora una speranza. Di vita, ecco perché rimane in nido, perché è una speranza, certo, di vita migliore, una promessa comunque di maggiore solidarietà sociale, e sicuramente è sempre un sogno di grandezza nazionale per gli argentini di vita. Ambasciatore, purtroppo il tempo in radio è veramente tiranno e corre via. Ho parlato anche troppo. E corre via veloce. Prima di salutarci, vorrebbe trovare qualcuno, insomma, un ultimo pensiero magari prima di congedarci dai vita. Ma Evita, l'unico pensiero è che chi è interessato al personaggio che possa leggere il libro, Sì, no, voglio dire che il libro è fatto in maniera assolutamente, come dire, divulgativa, cercato di non essere né troppo agiografico né troppo critico, insomma, di dare una visione per quanto possibile equilibrata, non celando certo gli aspetti negativi di vita, del peronismo, poi ci sarebbe da parlare del peronismo, del giustizialismo, ma insomma sicuramente un personaggio che vale la pena di scoprire per chi non lo conosce, di riscoprire per chi già lo conosce. Che cosa bolle in pentola invece? Qualche anticipazione qui ai nostri microfoni? Per che cosa? Per i suoi futuri lavori, insomma, qualche altro personaggio. Ah, beh, il mio lavoro, sì. Sono sempre curiosa, lei lo sa. Un altro volume, ma è un po', sì, è una biografia, e dove ho raccolto un po' anche di esperienze cubane, ed è una biografia su Raul Castro, visto che di Fidel esistono anche lì centinaia di biografie, mentre Raul è abbastanza misterioso e sconosciuto, è più certo. Però siccome adesso è Raul che ha in mano i destini di Cuba, della rivoluzione, di questo cambiamento che si dice ci sia, quindi mi è sembrato comunque utile tracciare un profilo biografico di Raul Castro. Allora, ambasciatore, Brussellando, come sa, un'altra volta. Brussellando per quest'anno ormai volge al termine, sono pochissime le puntate per questa quarta edizione, però ci ripromettiamo insomma di una prossima intervista, magari proprio con l'inizio della nuova stagione, proprio su Raul Castro. Cosa ne pensa? Volentieri, sempre volentieri, anzi complimenti a voi per il vostro entusiasmo, il vostro impegno, e credo che state facendo un eccellente lavoro. Grazie. Ho il telefono. Ambasciatore, noi veramente la ringraziamo, le auguriamo ancora un'ottima serata e restiamo in contatto. Grazie a voi. Grazie infinite. Grazie. Buona serata. Grazie, arrivederci, grazie. Salut, je suis Dani et si comme moi tu veux faire partie de l'équipe de bénévoles de Radio Alma, envoie un mail à l'adresse mail@radioalma.be. À bientôt. Ed eccoci nuovamente qui, è il nostro Giorgio che si diverte, lui è un grande imitatore, d'altronde ha tanti di quei pregi che non saprei nemmeno da dove ricominciare. Ma dai, data la tua assenza, capito? Ti fai poi sempre desiderare. È il tuo segreto, dici, confessa. È vero. Io ho tanti pregi che sono sommersi dai difetti. Non è vero, ne ho tantissimi, io lo so, ma non se ne vede uno. Questa è una risposta tipica lorandiana. Andiamo passo a passo. Proviamo prima la tua voce. Molto bassa. Vai. Hai ripreso a fumare. Librandolo. Amen. Questo è chiaramente un difetto. Volevo farla un po' come però insomma, un George papale. Basta, filmala, ti prego. Ecco, se non avesti capito, comunque lui ha detto librangolo. Librangolo. Così, non è che esattamente. Parlerai della Callas. No. Noi siamo sempre sconnessi perché siamo siamo nel dadaismo totale. Dadaismo totale, ma dai. Questa è invece una battuta tipica imoliana. È una battuta imoliana, vero, il dadaismo. Un dadaismo. Che non è per gli ascoltatori quello che faceva Dada Umpa. No, ma come? Dada non è umpa, quello. Ci siamo tagliati, come è possibile? Dada Umpa. Si fanno sempre, però vi parlerò di un'indiana stavolta, indiana dell'India, non quello di Colombo. Un'indiana? Arundhati Roy. Ma tutta colpa di Cristoforo Colombo comunque, seppure lì c'è stata. Comunque, ovviamente. Sorvoliamo. E di Magellano, anche lui portoghese, dai. Cioè, tipo là. Strano, che non sapeva che fare, circumnavigava quello che c'era da circumnavigare. Giustamente. E quindi giunto in India ha fatto Goa e dopo non ci siamo più staccati dall'India, quindi anche adesso ne rimaniamo affascinanti, abbiamo sempre un piede a terra. Però non è di questo di cui voglio parlarvi, vi voglio parlare del libro Il dio delle piccole cose di Arunda Tiroi. Ecco, che ho letto. Abbiamo qualcuno che l'ha letto, quindi ma non dirò nulla, prometto. Oh, sì, esattamente, per quello tu devi dire qualcosa, cioè adesso io dirò che cosa ne ho pensato e poi tu dici qualcosa. Va bene. Io allora, faccio Petronio, Tu te ne lavi le mani. No, faccio Petronio, faccio l'arbitro. Cioè, comunque, devo cominciare con concordare con Marie D, perché è un libro bellissimo. E lo stile è poetico, lirico, con delle combinazioni di parole che svelano un sacco di cose, ben trovate, molto, molto ben pensate. Ma quello che mi è piaciuto è anche la storia, ma anche se la storia stessa è una storia molto triste. Anzi, io lo descriverei come se fosse un po' il sistema di casta indiana dal punto di vista dei bambini, quindi senza senso, praticamente. Cioè, come è, infatti. Così com'è. E si tratta di una famigliola dove la madre commette un sacco di sbagli in sua vita, almeno dal punto di vista del sistema di casta. Il primo è che si sposa uno straniero, di cui ha due bambini, e l'altro è che dopo addirittura si interessa di un paria. E quindi qua non conta più qual è il valore delle persone, quali sono i loro talenti, qual è la loro calore umana. Quello che conta sono i pregiudizi che ci sono attorno. E questo libro rappresenta benissimo anche la forza di questi pregiudizi, cioè il fatto che la gente è assolutamente convinto di quello che dice. Tipo, dicono: ma come hai riuscito a sopportare la puzza del paria? Scusa, la puzza del paria non esiste, cioè fondamentalmente tutta la città puzza, cioè la puzza del paria, questo praticamente non esiste, però la gente è convinta di questa cosa, nel senso che c'è questa convinzione interna che i paria puzzano, allora devono puzzare. Comunque, oltre a questo, cioè io non vorrei entrare troppo nella storia né nella critica del sistema di casta, che comunque Arunda Tiroi fa in un modo così fine che praticamente la critica te lo formuli tu, non lo formula lei. Quello che mi è piaciuto tantissimo era come lei ha rappresentato il mondo dei bambini, cioè i loro giochi che sembrano proprio incredibili, cioè venuti dal nulla, il loro modo di pensare fantasioso ma anche diritto, cioè come prendono tutte le cose dal mondo e lo trasformano per il loro mondo, ma anche il loro modo di soffrire delle ingiustizie del mondo, perché loro sono comunque come molto più direttamente legati alla vita. Non ci sono delle spiegazioni, non ci sono delle cose che non sono socializzati, se possiamo dirlo così, quindi non possono dirsi che vabbè è così, non esiste per un bambino vabbè è così. Loro ne soffrono direttamente, e infatti questi due porteranno con sé tutta la vita la tragedia di cui poi si tratta in tutto il libro. E siccome Arunda Tiroi rappresenta questa tragedia in modo molto da puzzle, quindi un pezzo dopo l'altro che si raggiunge alla scoperta del mistero, non vorrei nemmeno svelarvi che cosa succede esattamente, perché non sarebbe giusto. No, assolutamente. Verrebbe meno poi il gusto della lettura, quindi concordo. E non posso fare altro che calorosamente raccomandarvi il Dio delle piccole cose di Arunda Tiroi, che ha anche vinto un premio Booker un po' di tempo fa. Ma io volevo sapere, la struttura di questo libro è fatta a flashback, come per esempio nel... Questa è un'altra tipica domanda, allora andiamo. L'unico grande film che abbiamo avuto, ha fatto un enorme successo, e sappiamo qual è: Chi vuole essere milionario, versione indiana. Diciamo un po' sì, ma un po' no. Cioè, sono due cose diverse. Jean Dolby racconta di altro. Sì, no, ma io sto chiedendo se c'è un flashback. Anche lì viene fatta. Si usa il flashback, trasmissione. Si usa il presente, gli avvenimenti, gli incontri del presente si usano per presentare il passato, però non. Cioè, infatti, come dicevo, è un libro fondamentalmente lirico, quindi tu fai questi passaggi fra i due mondi senza avere questo sentimento di flashback, no? Le due cose sono uniti praticamente, sono sciolti insieme. No, perché questo mi interessava, perché il fatto appunto che ci siano questa non precisa flashback ma un'unione insieme, in realtà secondo me sottolinea il fatto che noi siamo quello che eravamo, cioè non cambiamo mai, aggiungiamo cose alla nostra esistenza senza peraltro mai modificarle. Non sono molto d'accordo, però questo è quello può che, essere una filosofia che, di vita. Questo è quello che penso io, nel senso che noi non modifichiamo proprio nulla di noi stessi, aggiungiamo cose, per cui qualsiasi cosa, noi che ne so, un pensiero che abbiamo, comincia nel modo originale, quando eravamo bambini, e poi si trasforma rapidissimamente con quello che abbiamo messo. Però cambia, non può restare immobile. No, il pensiero cambia completamente, ha un pensiero, però ha un'origine, capito? Non so come dire, il percorso che fa all'interno parte da bambino e velocemente arriva all'età. A parte che sono stati di consapevolezza. Sì, certo, vabbè, ma è quello che sto dicendo. Ma non soltanto stato di consapevolezza, ma in base per esempio ai shock che ti vengono, comunque ci sono anche dei cambiamenti, cioè tu sei sempre identico a te stesso, e in questo sarei d'accordo, perché anch'io ho qualche sentimento a volte, ma chi era quella ragazzina che si addeggiava così così così? Ero diversa. Pensavo di te stessa. Pensando a me stessa, però lo sento in ogni mia cosa che io sono identica a me stessa allo stesso tempo, però quello non vuol dire che noi comunque siamo identici in troppe cose, cioè magari lo siamo in alcune cose ma non in ci sono... L'argomento mi sembra estremamente interessante e ricco di sfumature. Vabbè, che non credo riusciremo a esaurire. Se vuoi ne riparliamo la settimana prossima. Dani M è già pronto in regia, noi ringraziamo Ivola, quindi ricordiamo il dio delle piccole cose. Io l'ho letto e se volete poi magari la settimana prossima lo commento. E anche Figli di un dio minore, visto che ci siamo, ecco, film bellissimo. Così completiamo l'asse. A proposito di similitudini, insomma, ora ci interrogheremo su altre similitudini. Ambasciatore. Pronto? Pronto? Eccoci, ambasciatore, buonasera. Bentornato, bentrovato. Grazie. Spero possa ascoltare bene le nostre voci. Sì, sì, sento bene. E noi siamo veramente lieti di averla nuovamente qui come ospite a Brussellando. Lei in questo momento è a Washington, se non sbaglio, se i miei ricordi sono corretti. E quindi insomma c'è anche questa dimensione non solo diciamo di distanza ma anche temporale, dato che qui a Bruxelles sono le 20:42 mentre a Washington saranno le 4:42? No, le 14. Ah, le 14, ecco, ho sbagliato di... 10 ore insomma. No, 16:42 con 16:42. Allora ambasciatore, noi avevamo già insomma avuto l'occasione di sentirci e avevamo parlato di tanti altri argomenti, abbiamo parlato di multiculturalismo, lei insomma ci aveva raccontato un po' di questa esperienza con questa sua fondazione che si occupa di gemellaggio e scambio tra studenti italiani diciamo lì in America. Questa sera però ci vogliamo interrogare su altre cose, abbiamo altri quesiti e sono quesiti puramente di politica internazionale, e essendo lei a Washington quindi mi sembrava proprio la persona ideale per poter porre una prima domanda che riguarda proprio il nostro sistema politico internazionale. 2001-2011, 2001 come tutti ricorderete, tra qualche tempo insomma celebreremo, se questo è poi la parola esatta, il diciamo 10 anni da quello che è stato l'attacco alle Torri Gemelle. Quindi ci chiedevamo noi di Brussellando quali sono le differenze e le similitudini di quello che era il vecchio ordine, prendendo quindi il 2001 un po' come un giro di boa, quindi come una chiusura insieme a un'apertura verso una nuova realtà, con il mondo attuale, quello del 2011. Sì, il sistema si è innanzitutto destrutturato con la fine di quello che era la modalità principale che aveva definito tutto il dopoguerra, cioè l'est-ovest, cioè il rapporto e la tensione e la competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, Stati Uniti e loro alleati e Unione Sovietica. Direi che dopo di allora non si è ricostruito un vero e proprio sistema coerente, ma piuttosto siamo alla ricerca di un nuovo assetto che per il momento non vediamo, perché da un lato dopo l'illusione degli anni di Bush di un Stati Uniti come unica superpotenza, sono emerse con chiarezza anche per quello che è successo in Iraq e sta succedendo ancora in Afghanistan, i limiti di questa superpotenza. ma d'altra parte non si vede ancora quale possa essere il nuovo assetto, anche perché l'Europa non è ancora superpotenza politica e le potenze sfidanti di quello che una volta era chiamato terzo mondo, India e Cina, stanno crescendo ma non sono ancora in grado di esercitare un loro ruolo veramente significativo a livello mondiale. Quindi da un lato possiamo dire che abbiamo gli Stati Uniti e in minor misura l'Europa, dall'altro lato quelli che oggi sono chiamati BRIC, quindi il Brasile, la Russia, l'India e la Cina. Quindi dove potremmo collocare il baricentro del sistema politico attuale? In questo momento credo che ci troviamo di fronte a un sistema misto, citando i classici, sia greci che romani, vediamo che ci può essere un sistema che è caratterizzato da elementi di, chiamiamolo pure monarchia, in cui uno è più uguale degli altri, un secondo elemento che potrebbe essere una aristocrazia delle potenze principali, e qui parlo del Consiglio di Sicurezza, parlo anche del G20, e poi c'è molto più debole, ma lo stesso parte del sistema, un elemento di democrazia laddove c'è qualche cosa che introduce aspetti di uguaglianza. Sto parlando per esempio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il potere naturalmente non è distribuito in modo uguale in questi tre livelli. E poi c'è anche un altro problema, sempre ritornando ai classici, ci sono forme degenerative dei tre aspetti, perché la monarchia può diventare tirannica, l'aristocrazia può diventare oligarchia e la democrazia può diventare demagogia e oggi diremmo populismo. Quindi siamo in tensione tra sistemi teorici, loro degenerazioni e loro interazioni, quindi è un sistema estremamente confuso. Ed è anche un sistema estremamente pericoloso, perché vediamo ad esempio di fronte alla crisi economica, facciamo molto parlare di governance, ma questa governance è molto precaria e la preoccupazione è che il sistema possa sfuggire dal controllo. E allora, quindi sorge pure spontanea quindi un'altra domanda, perché c'è un elemento che effettivamente ha... insomma ha influito un po' poi su questo ordine mondiale, che è quello che oggi noi chiamiamo terrorismo. Magari in passato poteva essere definito pirateria, insomma non so se magari l'accostamento è felice, però il terrorismo secondo lei e poi col problema del nucleare che continua, perché nonostante tutto, voglio dire, anche se la guerra fredda è finita, comunque questa deterrenza al nucleare mi sembra sia comunque uno di quegli elementi che dà una certa continuità a questo sistema, che anche se è incerto. Quindi lei come lo vede invece il fenomeno del terrorismo? E poi mi ricollegherò invece alla... Sì, ci sono due aspetti. Da un lato la famosa guerra contro il terror, war on terror, si è rivelata un errore, non perché il terrorismo non ci sia e non vada combattuto, ma perché il terrorismo non è una causa in sé, è uno strumento che può essere usato da chiunque. Io ho anche scritto cose sul terrorismo, e soprattutto partendo dalla considerazione che a livello internazionale non ci siamo ancora messi d'accordo su una definizione di terrorismo, cosa che è piuttosto assurda, in quanto mi sembra evidente che il terrorismo può essere definito. Ma perché questa difficoltà? Perché tutti vogliono esentare la propria causa dalla definizione, ovvero se uno lotta per la liberazione nazionale non è terrorismo, secondo quelli lottano per la liberazione. È un po' come la difesa della tortura fatta da quelli che dicono se noi lottiamo contro il terrorismo la tortura non è tortura. Credo invece che dovrebbe essere razionale per tutti noi raggiungere un'intesa su alcune forme, il terrorismo non è una causa, è una forma di violenza, una forma di conflitto, alcune forme che andrebbero concordemente bandite, e ci metto anche ovviamente il genocidio tra queste forme di conflitto che non sono ammissibili, quale che sia la causa. Perché vede, uno può mettere le bombe perché vuol difendere la natura, ora difendere la natura è una buona causa, credo, e però le può mettere anche, come ha fatto la mafia italiana, per difendere la criminalità organizzata, quindi il terrorismo in sé non è una causa. Purtroppo è stato presentato a livello ideologico come se il terrorismo fosse una causa specifica e anzi fosse legata, diciamolo chiaramente, all'Islam. Assolutamente. Mentre tutte le cause, tutte, guardi che l'ETA e l'IRA sono cattoliche di radici, ah, l'Islam, eppure terroristi sono. E quindi, insomma, c'è stata una voluta confusione che è teorica ma che poi diventa pratica nella definizione del nemico da combattere. Questo nemico poi ha trovato un altro alleato, che, o comunque lo si può leggere come tale, che poi è il nucleare, quindi c'è questa doppia minaccia, da un lato il terrorismo, dall'altro il nucleare, e quindi ci vogliono anche far credere che in taluni paesi, definiti terroristi, ci siano anche strumenti nucleari. Allora, sul nucleare credo che abbiamo un punto di riferimento molto preciso, che è il trattato non proliferazione, il TNP. Esatto. Allora, il trattato... Si cerca di dimenticare, si cerca di presentare questo TNP come focalizzato soltanto sulla non proliferazione, ovvero il fatto che bisogna impedire a nuovi paesi di entrare nel novero dei paesi che hanno armi nucleari, cosa che in effetti è vera. Però ci sono altri due aspetti del TNP. Uno è la collaborazione sul nucleare pacifico. E l'altro è il disarmo, uh-huh. Il graduale disarmo delle potenze che già sono nucleari. Lei capisce che se noi dimentichiamo gli altri due aspetti, diventa difficile convincere chi non è dotato di armi nucleari a rinunciare a questa possibilità. E io credo che il trattato non proliferazione vada rafforzato, non indebolito, ma si potrà rafforzare soltanto se verrà applicato nella sua interezza. D'altronde ci sono paesi che fanno leva poi sul nucleare anche per alimentare quello che è il sentimento di appartenenza delle folle, delle masse. Pensiamo all'Iran, pensiamo al Pakistan, pensiamo insomma anche ad altri paesi medio orientali. Ah, ma se per quello anche l'India. Cioè diventa il possesso dell'arma nucleare come un riconoscimento di uno status. Esatto. È verissimo, quando si parla di Iran ad esempio si dimentica, ed è veramente un errore serio, che la questione nucleare non è percepita in Iran come questione di regime ma come tema nazionale. Uh-huh. Anche gli oppositori del regime sono a favore senz'altro del nucleare pacifico, senza limitazioni, quindi la possibilità di arricchire eccetera. E sul nucleare non pacifico le opinioni sono diverse, però potrà trovare anche degli oppositori del regime che sono a favore dell'arma nucleare per l'Iran, non per il regime, ma per l'Iran come paese. Assolutamente, questi poi sono i vari paradossi che insomma bisogna anche saper analizzare. Facciamo un passo indietro invece e torniamo alla governance. Sta accadendo un fenomeno abbastanza singolare, forse già accaduto ma non ne ho memoria, quindi magari possiamo anche dire questo aspetto. Due organi molto importanti, il Fondo Monetario Internazionale da un lato e la BCE dall'altro, quindi uno in Europa, l'altro negli Stati Uniti, anche se con valenza multilaterale e internazionale, stanno cambiando i vertici. Che cosa ci possiamo aspettare? La cosa principale, direi che sulla BCE noi siamo fiduciosi che sceglieranno la persona migliore, in quanto italiano, ma in quanto migliore. Io direi su questo, ma su questo devo dire che in Europa c'è un... Nonostante i tedeschi. Beh, ma credo si siano convinti. No, invece la scelta politicamente più controversa è quella dell'AMF. Eh beh, certo. Perché? Perché c'è questa tradizione europea, anzi nella specifica francese, ma questo non è che tutti siano d'accordo. Ad esempio, lei saprà che c'è un candidato messicano. Assolutamente, Caster, certo. Esattamente, ha fatto dichiarazioni in cui dice non si vede perché i paesi non... dell'Europa non abbiano il diritto a questo punto, visto come stanno andando le cose nell'economia internazionale e viste le nuove realtà del G20, perché debba necessariamente essere un europeo. Quindi il dibattito è ancora aperto. Beh, c'è anche l'israeliano, e quello potrebbe... israeliano-americano, pseudo-americano, non so nemmeno io come collocarlo, Fischer. Hard è, direi, addirittura d'arrivo, però Beh, d'altronde ne abbiamo bisogno in questi tempi di transizione per tutta una serie di paesi europei. Un europeo al fondo monetario potrebbe comunque costituire, voglio dire, l'eredità naturale di Strauss-Kahn, che insomma... No, è vero. Poi non dobbiamo dimenticare che se noi mettiamo la BCE da una parte e l'IMF dall'altra, l'IMF sotto Strauss-Kahn era, per fare riferimento a un'espressione americana, era il good cop, cioè era quello che era meno pericoloso nell'applicare certi certo. Il bad cop era l'europeo, il good cop era l'IMF. Adesso non sappiamo più, perché era qualcosa che dipendeva molto dalla personalità e anche dall'orientamento, chiamiamolo, politico-ideologico di Strauss-Kahn. Assolutamente. Certo, un neoliberista. E questa è un po' anche l'espressione di altri tempi, ancora anche del sistema politico internazionale. Ambasciatore, lei saprà benissimo, abituato sicuramente ai seminari e ai convegni, che il tempo è tiranno. E quindi mi chiedevo, c'è qualcuno che vorrebbe salutare, vorrebbe indirizzare ancora un ultimo saluto questa sera dai nostri microfoni? Beh, direi che voglio salutare tutti i miei ex colleghi, che non sono più colleghi ma sono rimasti amici, e che spero qualcuno di loro che li stia ascoltando. Sicuramente, sappiamo che tanti diplomatici ci ascoltano, anche perché ormai la pena del diplomatico, che quindi la sezione di Brussellando, che ha il piacere insomma di intervistare voi ambasciatori, diplomatici o comunque consiglieri, ci ascoltano, e anche abbastanza sovente. Quindi siamo certi che i suoi saluti arriveranno sicuramente allora a destinazione. Il mio saluto numero uno va a Stefano Bari, che voi assolutamente un grande amico. È grandissimo amico anche mio. Stefano è stato veramente un utile supporto quest'anno nel metterci in contatto con le diverse personalità che abbiamo intervistato a Brussellando. Sì. Ambasciatore, noi le auguriamo ancora una buona giornata, già che immagino che la giornata lavorativa sia ancora lunga, e speriamo di sentirci prossimamente. Buon lavoro. Grazie, a prestissimo. Tanto. Salve. E voilà. Ed eccoci qui, una telefonata in America, a Washington. Mi emoziona sempre perché ci sono queste doppie dimensioni tra oceani, montagne, insomma dall'altro lato del globo. È vero, è strano, poi parlare in diretta con qualcuno già forse già solo 15 anni fa non sarebbe stato pensabile, insomma, avere la trasmissione. E invece poi tutto sommato è andato bene. Io ringrazio tutti voi, vi ringrazio per la pazienza, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per le email che ancora continuiamo a ricevere. Mi dispiace se ancora non ho risposto a tutti, ma prometto che lo farò. Ringrazio Dani M in regia, che questa sera veramente ha fatto dei salti mortali per essere qui con noi. Grazie. Fiordaliso, senza la quale tutta una serie di letture effettivamente andrebbero dimenticate, perché effettivamente riesce a ripescare veramente chicche straordinarie come quella di stasera. È incredibile. Il nostro George, che è incredibile dall'altra parte, che è incredibile, ma dall'altro, in tutti nell'altro i sensi. Senso. Stabilito che ha una voce incredibile, sì. Almeno la voce. Vi auguriamo un ottimo inizio d'estate, già che oggi è il 21 giugno, quindi godetevi questa lunga giornata, perché ci sono ancora tante ore di sole, ovunque voi siate, al mare, montagna, al lavoro, a Bruxelles, dappertutto, insomma, in ciascuna delle città dalle quali ci potrete anche ascoltare in podcast. E quindi a martedì prossimo. Ciao. Buona settimana. Ciao, Maria.